Capitolo 19. Le cupole di Mosca assaporano la prima neve dell'anno. I fiocchi cadono fitti sopra la tettoia, alla fermata del bus. Bogdanov indossa gli stivali di feltro, ma solo perché Natalia glieli ha preparati sulla porta di casa. Assorto com'è dai suoi viaggi nel passato, potrebbe uscire anche a piedi nudi. «Alla vostra scuola in Italia», ha detto Dmitriev, il militante dell'opposizione, per ricordargli dove si sono conosciuti. Già, ma quale delle due? Il suo nome gioca a nascondersi negli elenchi degli studenti di Capri e Bologna. Sull'isola ne sbarcarono 12, che si aggiunsero a Leonid Volok. La maggior parte veniva dagli Urali. Pochi da Mosca, soltanto uno da San Pietroburgo. Si chiamava anche lui Malinowski. Capelli rossi, occhi giallastri e guance crepate dall'acne, sembrava appena scappato da una casa in fiamme. Terminata la scuola, un amante lo accusò di essere un agente dell'Ocrana, nome in codice Il Sarto. Espulso dal partito, dopo la rivoluzione si tinse i capelli e provò a infiltrarsi nel soviet di Pietrogrado. Zinoviev lo riconobbe. Un plotone di esecuzione archiviò la faccenda. Chissà se lo avevano reclutato prima di arrivare a Capri, oppure dopo, al ritorno in Russia, come quell'altro studente, Romanov, anche lui scoperto e fucilato. Il bus frena sui ciottoli imbiancati, sollevando schizzi di fango. Sulla fiancata una scritta in caratteri rossi dichiara che non esiste Dio, la religione è un inganno. Bogdanov sale insieme a due ragazzini armati di flauto e fisarmonica. Il secondo attacca a suonare un accompagnamento, mentre l'amico canta Yabloshko, con le vocali strascicate di chi non ha smesso di bere dalla sera prima. Lo stesso inno, trasposto per voce e mandolino, era il pezzo forte di due operai della scuola. Com'è che si chiamavano? Certo, nessuno dei due somigliava a Dmitriev, anche a voler immaginare le trasformazioni fisionomiche intervenute in 20 anni. Abitavano con gli altri a Villa Spinola, la nuova casa di Gorky. Un edificio dall'intonaco rosso, con tanti terrazzi e balconi, talmente incastonato nel monte a strapiombo sulla marina che alcune stanze avevano una parete di roccia. Lo scrittore si era trasferito lì, in una dimora più spaziosa, per ospitare i corsi e vivere insieme agli operai russi. Ma questi erano parecchio a disagio, tra mobili di lusso, tazzine di porcellana e servitori. Il palazzo era più adatto per ospitare principi che non la prima scuola superiore di propaganda e agitazione socialdemocratica per lavoratori. Avviarla e prendersene cura significò abbandonare Parigi e un figlio nato da poche settimane. Anfusa non gli chiese di restare. I compagni si sarebbero occupati di loro e lei non era il tipo da farsi compatire. «Vedrò che non vengano trascurati», disse Natalia. Una promessa che alleviò di molto il peso della partenza. I musicisti terminano l'esibizione e sfilano tra i passeggeri col cappello in mano. Nessuno dà nulla. La rivoluzione ha ormai cancellato quel senso di colpa che apre i portafogli molto più della pietà. Dei 13 studenti di Capri, 5 affiorano dai ricordi. I loro nomi vanno a braccetto come in una formula apotropaica. Pachom, Vania, Foma, Vassili e Vilonov, l'operaio di Samara che arrivò sull'isola all'inizio dell'anno. Gorky l'accolse in casa sua e raccontava in giro che l'idea della scuola non era venuta agli insegnanti, bensì a quel giovane brillante, assetato di conoscenza, che il partito aveva mandato laggiù per curarsi la tisi. E meno male che Lenin non conosceva le sue teorie filosofiche, altrimenti l'avrebbe lasciato crepare tra le paludi del Volga. Scriveva che il movimento spontaneo dei lavoratori avrebbe portato senza intoppi al socialismo, se non fosse che i capoccioni del partito lo deviavano, a causa della loro mentalità borghese. Per questo, Misha Vilonov studiava e studiava con l'obiettivo di diventare uno di quei capoccioni. Per questo, mollò la scuola, tirandosi dietro quei 4. Se ne andarono a Parigi, per chiedere perdono a Lenin, non appena le sue lettere e i suoi articoli lanciarono l'anatema sulle lezioni di Capri. Chiunque le frequentasse era scomunicato, al pari dei docenti. Appena giunti a destinazione, i fuoriusciti pubblicarono la loro abiura. Si ritenevano vittime di un raggiro, un sortilegio cattivo per trasformarli in antimarxisti. Leonid commentò le loro accuse dicendo che quelli avevano trovato il modo per prolungare le vacanze in Europa, visto che la scuola di Capri volgeva al termine e in Russia li aspettava un duro lavoro. La polizia dello zar e magari la fame. La spiegazione poteva andar bene per i gregari, ma non per Vilonov, il pupillo di Gorky, il meccano filosofo che sembrava uscito dalle utopie dei suoi professori. Vilonov le aveva provate tutte per evitare la rottura. A forza di insistere, aveva ottenuto che la scuola invitasse a insegnare lo stesso Lenin, Rosa Luxemburg, Kautsky e Trotsky. Rifiuti, scuse e mancate risposte non lo avevano scoraggiato. Aveva preteso di inviare a Parigi il programma delle lezioni per sottoporlo all'approvazione del centro bolscevico, scrivendo che lì a Capri i docenti erano la minoranza e le decisioni spettavano agli operai. Ma questa, per Lenin, non era affatto una garanzia. Alla fine, quando Vilonov si trovò a scegliere tra il partito e la scuola, Lenin lo invitò a raggiungerlo in Francia, per aiutarlo a fondarne una, ortodossa e certificata. Lunacharsky si infuriò. Disse che Vladimir Ilyich non solo rubava loro gli studenti, ma pure le idee. Strana reazione per uno che due anni dopo, con il capo cosparso di cenere, avrebbe insegnato proprio alla scuola parigina. «Quando un avversario è costretto a imitarti, non è già una vittoria?» ribatté lui. «E poi le idee non si possono rubare, perché sono collettive». Però, che amarezza, per ciò che si profilava all'orizzonte. Quanto alla dipartita dell'uditore più in gamba, i professori si erano consolati dando la colpa alla moglie di Gorky, Maria Andreeva, che, da prima donna di teatro, trattava tutti dall'alto in basso. Vilonov si era lamentato di tante piccole umiliazioni. Per curarsi la tisi, il dottore gli aveva prescritto 3 ore di gite in barca ogni giorno. La salita dalla marina fino a Villa Spinola era però troppo ripida per i suoi polmoni marci e gli toccava prendere la funicolare. Gorky gli pagava volentieri i 50 centesimi del biglietto, ma i soldi glieli gestiva la moglie, che costringeva Misha a domandargli ogni mattina, come un'elemosina quotidiana, con tutto che spesso non si faceva trovare, costringendolo ad andare a piedi. Fortuna che a Capri non nevica come a Mosca. I finestrini del bus sono coperti da un velo di ghiaccio e il vento li riempie di francobolli bianchi. Il conducente grida il nome delle fermate perché è difficile riconoscere i luoghi e scendere a quella giusta. Forse anche per il clima, Leonid resistette alle sirene di Parigi e restò a Capri fino alla fine, seguendo i corsi di storia ed economia, le esercitazioni di propaganda e le gite artistiche organizzate da Lunacharsky. Anatoly dovette trasferirsi a Napoli e da lì venire ogni giorno in traghetto perché sua moglie Anna aveva litigato con Maria Andreeva e le due non si potevano vedere. Poi sorsero problemi anche con gli studenti. Lunacharsky propose di iniziare le giornate con un Padre Nostro laico di sua invenzione e Kalinin ne scrisse la parodia. Kalinin, eccone un altro. Partito Vilonov diventò lui lo studente modello della scuola e almeno quello non fu proprio un abbaglio. Dopo un periodo nel Proletkult adesso lavora al Ministero dell'Educazione. Bogdanov intravede la guglia verde della Torre Borovitskaya e si prepara a scendere. Deve essersi perso l'avviso gridato dal conducente. Si apre un varco tra cappotti e pellicce e appena il bigliettaio sblocca la porta si lancia fuori. Il viaggio non è finito. L'opposizione ormai può tenere un comizio solo ai margini della città, al capolinea del tram numero 16. Ora la neve scende più rada, ma i giardini di Alessandro sono già trincea e arsenale per una battaglia a pallate tra bande di bambini. 2 spie, 2 musicisti, Kalinin e 5 fuoriusciti, oltre a Leonid ovviamente. Totale 11 su 13. Mancano 2 nomi. Uno inizia per K, sicuro. Koronev Korisev. Ha pubblicato un articolo tempo fa, un ricordo della scuola. Abbastanza sincero, tutto sommato, per quanto poco originale nelle critiche. Solita solfa. Programma velleitario, corsi troppo difficili, studenti impreparati. Nessuno coglie il merito principale di quel tentativo. A Capri, per 4 mesi, intellettuali, socialisti e lavoratori russi studiarono fianco a fianco, quando l'esilio, la prigione e le persecuzioni poliziesche rendevano impossibile un incontro del genere in un qualunque angolo dell'impero zarista. Un esperimento talmente interessante da costringere Lenin a replicarlo. Il seme gettato che mette radici. Si accorge di essere già sul tram soltanto alla prima frenata brusca. È salito a bordo come spinto da un'invisibile catena di montaggio che la neve nasconde e zittisce insieme ai palazzi della città. Rinuncia all'impresa di rammentare l'ultimo nome. Accanirsi è controproducente. Deve essere quel tipo che si lamentò dei corsi troppo lunghi, ottenendo una riduzione di mezz'ora e una pausa con dibattito dopo ogni lezione. In quale altra scuola gli studenti possono imporre modifiche d'orario? Nella seconda edizione, a Bologna, si fece tesoro degli errori della prima. Fu Kalinin a scegliere gli studenti, 21 in tutto. Leonid, l'unico ripetente, rimase in dubbio fino all'ultimo. Non tanto per paura di studiare le stesse materie, quanto piuttosto per l'assenza di Gorky. A sentir lui, lo scrittore era stato l'anima della loro compagnia. Perché non siete riusciti a smuoverlo dalla sua isoletta? La scusa ufficiale era la tubercolosi, che lo vincolava al clima mediterraneo. Ma il motivo era un altro. Nel giugno del 1910 Lenin era tornato a Capri. Aveva giocato a scacchi, questa volta con Bazarov. Aveva imparato a pescare con la lenza. Aveva cantato e scherzato, ma la spaccatura tra loro non s'era ridotta di un millimetro. La tectologia insegna che gli elementi di un sistema tendono a differenziarsi e la loro divergenza aumenta se non intervengono la complementarietà e la congiunzione. Come due sposi, che sono individui diversi e con la vecchiaia lo diventerebbero ancora di più, finendo per distruggere la coppia se non trovassero il modo di completarsi a vicenda e condividere interessi e passioni. Ma Vladimir Ilyich non voleva essere complementare a nessuno. Il suo rimedio al problema della divergenza era l'egressione, radunare le forze, prendere in pugno il partito. Il sistema solare e il corpo umano sono lì a dimostrare che gli organismi aggressivi, con un centro o una testa, possono funzionare bene, ma la loro stabilità è minacciata da una contraddizione. Per combattere la divergenza, essi accentrano il potere e producono così un nuovo squilibrio, destinato anch'esso ad aumentare, il più delle volte, generando due centri in lotta tra loro, o addirittura una molteplicità di teste che si divorano a vicenda, come nel capitalismo. Complementarietà e congiunzione tornano così a essere l'unico rimedio. Infatti Gorky sperava di contrastare le divergenze tra i bolscevichi congiungendo i litiganti nella sua bella villa, ma al secondo tentativo aveva dovuto arrendersi all'aggressività di Lenin. Il centro bolscevico istituì una commissione scuole, presieduta da Semashko, e per la primavera del 1911 annunciò l'apertura di una scuola di partito a Longjumeau, vicino Parigi. Una decisione che rimescolava le carte. Mentre la scuola di Capri poteva ancora presentarsi come un esperimento, quella di Bologna sarebbe stata uno schiaffo, un gesto che Gorky non approvava. Qualcuno, fiutando l'aria, mise in giro la voce che fosse uscito dal gruppo Vpered. I sospetti caddero su Landrieva, ma Natalia non era d'accordo. «C'è qualcosa di più maschilista dell'incolpare una donna per le liti tra voi uomini?» Sia come sia, la notizia della sua fuoriuscita si ingrossò e Gorky non si premurò di smentirla. A nulla servì scrivergli una lettera per domandare che lo facesse. La replica fu la pietra tombale sulla loro corrispondenza. «Sapete che vi rispetto come rivoluzionario, ma non risponderò più alle vostre lettere. Sono troppo dure, scritte come se voi foste un sergente e io un semplice soldato della vostra truppa». Gorky tornò in Russia nel 13, grazie all'amnistia per i 300 anni della dinastia Romanov. Nei primi tempi della rivoluzione sparò bordate esplosive contro Lenin. Lo chiamò tiranno, anarchico, impostore a sangue freddo. Poi se ne tornò in Italia, a Sorrento, e adesso si dice che Stalin gli stia preparando un grande ritorno, una festa da eroe nazionale per il suo 60° compleanno. Ha smesso di nevicare. Dai finestrini del tram, Bogdanov riconosce la colossale meringa di Villa Morozov, con la scritta Proletkult sul portone d'ingresso. Nella bacheca di legno, per gli spettacoli in cartellone, campeggia la locandina di un film, programmato ormai 3 mesi fa. Il concorso in giardino per il concerto del decennale rischia di essere l'ultimo evento importante celebrato nella vecchia sede. Presto ci si trasferirà all'ambasciata del Giappone. A Bologna, il palazzo che ospitava la scuola era la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Cavaliera. Niente a che vedere con il castello di Morozov o con i soffitti affrescati di Villa Spinola. In compenso, a Bologna c'erano due belle tipografie legate al Partito Socialista che governava la città. Grazie a quelle si tenne il laboratorio pratico di stampa, diretto da Vyacheslav Menzhinsky, il lavoratore più infaticabile che avesse mai conosciuto. Dormiva 4 ore per notte, fumava 75 sigarette al giorno e sapeva leggere 16 lingue. Scriveva poesie, traduceva dal persiano i versi di Umar Khayyam, ma era laureato in giurisprudenza e agli studenti della seconda scuola di propaganda e agitazione insegnava i fondamenti del diritto pubblico. Tra inchiostri e rotative si fece aiutare da Trotsky, arrivato a Bologna con una valigetta di caratteri cirillici. È strano ricordarli assieme, a comporre i fogli di uno stesso giornale. 20 anni dopo uno è diventato il grande oppositore, mentre l'altro, costretto dall'angina su un divano della Lubyanka, gli mette alle calcagne la polizia segreta. Il tram passa di fronte all'ingresso dello zoo, con le sue finte torri da maniero medievale. Bogdanov immagina un leone che ruggisce nella neve e fenicotteri intrappolati nel lago ghiacciato. Chissà cosa direbbe Danny di un luogo come questo. È di cattivo gusto, ma non per gli animali in mostra. Che si tratti di quadri, statue o elefanti, quella di accumulare tesori è un'abitudine da sovrani o da predoni. I musei del futuro non avranno pareti. Scende di fronte ai magazzini Mostorg. Il viaggio a salti e scossoni gli ha rivoltato il pranzo nello stomaco, ma la vista del palazzo lo risolleva. Quel tipo di architettura è la sua filosofia tradotta in vetro e cemento. Tutto l'edificio sembra costruito con un gioco di incastri. Ogni parte ha una funzione chiara, espressa con i materiali più adatti. L'enorme finestra sporgente al centro della facciata, il piano terra occupato dalla vetrina, l'ultimo dall'insegna. Niente fronzoli, niente sotterfugi, nessun bisogno di rappresentare qualcosa o di dare sfogo allo spirito di un artista. Se esistesse una fabbrica gigantesca, capace di sfornare interi edifici, il risultato sarebbero opere come questa. Belle, senza cercare di esserlo, senza sbracciarsi per essere ammirate. Perché la bellezza è organizzazione. Sull'orologio mancano 10 minuti alle 6. Le luci dei lampioni si accendono, offuscate dalla neve sul vetro. Il grande slargo, all'incrocio di 6 strade, confina con un prato incolto, da poco trasformato in giardino pubblico, con alberi e sentieri. Molte feste e manifestazioni si tengono qua, ma ora non ci sono particolari affollamenti, tranne lo sciame di operai che esce dalla fabbrica a 3 montagne. Probabile che il comizio dell'opposizione conti di intercettarli a fine turno. Prima di partire, Bogdanov ha rassicurato Natalia. «Tutti sanno come la penso», le ha detto. Tuttavia, mentre si allontana dalla fermata, rialza il bavero del cappotto, solleva la sciarpa fino alla punta del naso e slaccia i parorecchi e della papacia. Una costruzione a forma di missile, alta un paio di metri e con la punta di vetro, sorge sull'altro lato della strada. Il poliziotto che di solito la occupa per sorvegliare il traffico non è al suo posto. Sotto si va radunando una piccola folla. Di certo l'oratore parlerà da quel palco già pronto. Senza avvicinarsi, Bogdanov cerca nel crocchio il volto di Dmitriev, ma invece di incontrarlo nel presente, lo ritrova nel passato, nella sede della cooperativa tipografica Azzo Guidi di Bologna. Erano tutti intorno al tavolo a leggere e correggere il giornale. Trotsky, Lunacharsky, Menginsky, Kollontai. Fu un articolo di Leonid a scatenare la discussione. L'argomento era il suicidio, o meglio, l'argomento chissà qual era, però in un passaggio, chissà con quale nesso, Leonid sosteneva che un paese socialista dovrebbe attrezzare dei reparti d'ospedale per suicidarsi senza soffrire, come sulla Stella Rossa. I marziani vivevano il doppio degli uomini, grazie alle trasfusioni, e quando non si sentivano più utili alla società, decidevano, senza clamori, di concludere l'esistenza. Ma la diatriba bolognese, più che nel merito della questione, divampò su un dilemma di metodo. Lettori e studenti della scuola avevano posizioni diverse sul tema del suicidio. E dunque, come doveva comportarsi il loro giornale? Astenersi dal prendere una posizione oppure ospitare il dibattito? Mostrare il conflitto interno oppure attendere che ci fosse una linea comune? Era, più in piccolo, il riflesso dei dissidi di Parigi, dentro la redazione del Proletari. Menginsky sostenne che un giornale di partito deve educare le masse e quindi esprimersi in maniera univoca. Questo è giusto, questo è sbagliato, altrimenti gli operai si confondono. Molte voci si dissero d'accordo. La frase di Leonid sul suicidio andava eliminata. «Ma se dobbiamo leggere giornali del genere», sbottò Dmitriev, «scritti pensando che i lettori siano stupidi, per quale motivo ci fate studiare?» È come se l'avesse lì davanti, sente addirittura la sua voce, così sottile per un uomo della sua stazza. «Compagno Bogdanov!» Qualcuno lo tira per la manica del cappotto. Si volta con un leggero batticuore. Studia i tratti del viso. Non è poi molto cambiato rispetto al giovane operaio di Bologna. «Stiamo per cominciare, venite!» Bogdanov non si sposta. Non ha alcuna intenzione di assistere al comizio. Trattiene Dmitriev e si abbassa la sciarpa. «Devo farvi una domanda», esordisce. «Vi ascolto. Leonid Volokh, ve lo ricordate? Era con voi alla scuola di Bologna». Dmitriev non deve nemmeno pensarci su. «Certo che me lo ricordo». «Cosa ne fu di lui?» «Partimmo insieme. Tutti andavano a Parigi, ricordate?» «Già, Parigi. Anche gli studenti di Bologna invitarono Lenin a insegnare in Italia, ma lui, recidivo, li coinvitò in Francia. Quella volta però non ci furono rinnegati. Semashko si presentò sotto le due torri, a scuola finita, per offrire agli studenti di portarli a lezione dal gran capo. La maggior parte accettò, ma una volta a destinazione cominciarono i problemi. A Bologna gli allievi erano abituati a decidere con gli insegnanti. Orari, pause, materie, docenti da interpellare. A Parigi non era previsto. Dopo 3 settimane di liti la classe venne sospesa e rispedita in Russia. «Io e Volokh non andammo con gli altri», prosegue Dmitriev. «Diceva che a viaggiare insieme si rischiava l'arresto». E aveva ragione. Al rientro da Capri, tutti gli operai erano finiti in prigione e al rientro da Parigi dopo Bologna, stessa musica. Un bel concerto per infiltrato e orchestra, come d'abitudine. «Andammo a Genova. Leonid mi suggerì di prendere una nave diretta a Odessa e di offrirmi come meccanico per pagarmi il viaggio. Rientraste insieme?» Dmitriev saluta una compagna appena arrivata, poi torna a rivolgersi a Bogdanov. Lui non voleva più saperne del partito. Era rimasto deluso dai troppi litigi, capite? Si imbarcò come marinaio su un mercantile diretto in America e non lo rividi più. Bogdanov sente salire le voci alla sua destra. Non capisce cosa dicono, ma si volta di scatto e vede 2 individui, con la giacca di pelle, strattonare un uomo. Subito altri 2 cercano di liberarlo e il grappolo si ritrova per terra. Oltre le prime teste, un drappello armato di bastoni si fa largo tra i passanti. Con uno slancio appena trattenuto, Dmitriev spinge via Bogdanov. «Allontanatevi, svelto!» Lui gira i tacchi e si risistema la sciarpa sulla bocca mentre fila verso l'ingresso del parco. Prima passo spedito, poi sempre più veloce, incalzato dalle grida e dal fuggi-fuggi. Da molto non gli capita di correre e presto si ritrova col fiato corto, la schiena dolorante e gocce di sudore giù per le guance. Controlla che nessuno lo segua e rallenta l'andatura. Ormai in vista dell'obelisco in granito nero dedicato agli eroi del 1905, l'anno in cui ha conosciuto Leonid, in una prigione di San Pietroburgo. Nel frattempo il mondo è cambiato fino a rendersi irriconoscibile. Eppure lui deve ancora scappare.